and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Senti che puzza di chiuso che c'è all'asilo stamattina. Sempre lamentarsi. No, bagno schiuma, sapone, quelle cose lì e via, no? Fa male. Ma come? Fa male. I bambini, prima cosa da insegnargli è l'igiene personale, una bella doccia tutte le mattine. Ma non lavarsi i denti. Ma fa malissimo. Ma cosa stai dicendo? Ti toglie tutte le grassetti che hai sulla pelle, lavarsi troppo. Le cose che si dicono quando non ci si vuole lavare, quelle. Ma non è vero, lavarsi è una perdita di tempo. Tu cosa dici? Un bambino di 7 anni, fatti la doccia tutte le mattine. Ma sei matto. Tu sei matto, ma figurati. Ma capa, poi magari stupisci. Gli asciughi anche i capelli col phon. Ma certo. Ma guarda che Drago fa malissimo, non lo dico mica io, lo dicono gli scienziati americani. Vabbè, i soliti scienziati americani. Ma no, i soliti, hanno diramato un'informativa sì. A tutte le agenzie giornalistiche News and Talk del mondo con la notizia che lavarsi troppo fa male, specie nei bambini. Ma figurati. Dato che siamo tutti bambini è una buona notizia per tutti, laviamoci sì, di sì. Meno. Per no? Tutti, vabbè. Per tutti quelli che non amano troppo l'acqua e il sapone. Vabbè, ma chi è che ha firmato questa ricerca? L'Università del Michigan. Quindi, allora, la Cina ormai è la potenza numero uno, vero? Questo ma me cosa lo confermi, c'entra? No? Cosa sì, vuol no? dire? È la Cina. Questo significa che l'America è un po' in decadenza, giusto? Ma non lo so. Drago, stiamo quindi, a parlare di sapone. No, aspetta. Man mano che decade, l'America dovrà fare dei tagli alla ricerca, giusto? Sì, forse ecco. Sì. Ma quindi è plausibile sperare che tra pochi anni ricerche che dicono che farsi la doccia fa male spariranno dalla faccia della terra, giusto? Ma non lo so, ecco, giusto? Cioè, questi so. Ricercatori riceveranno un giusto castigo diventando disoccupati, vero? Spero di no, la ricerca è importante. Vabbè, ma tra un ricercatore che non si fa la doccia e un disoccupato che se la fa, io preferisco il disoccupato. Un ricercatore che non si fa la doccia diventerebbe un disoccupato che continua a non farsi la doccia. Non cambia niente. Ecco, io lo sapevo, ma Tito! Tito, stai fermo! Sì, Tito, però una doccetta magari... Con tanta schiuma anche. Stop your feet! Stop your feet! Stop your feet! Stop your feet! Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Ciao ragazzi! Come sia Sio, ciao ragazzi! Ma bambino Altobelli, cos'è che hai tutto allegro? No, ma oi, Altobelli no, eh! Ma è Altobelli, Spillo! Esatto, se parli di Spillo, lasciamo stare! Vabbè, il milanista, calcio, no? Dai, per quello! Sì, vabbè. Comunque, oggi è una grande novità, eh! Sì? Mi sono fatto un amico! Speravo ti fossi fatto una doccia, perché... Ma no, che doccia! Un amico! Vabbè, bravo bambino Berlucchi, allora, sono contento! E poi comunque, lavarsi fa male, eh! Ma sì. Lo dicono al Michigan, eh? Vabbè, sentiamo, chi è questo amico nuovo che hai? Non lo so, è nuovo, è un bambino appena arrivato. È arrivato dalla Sicilia, no? Sì. È un bambino che mi ha preso subito in simpatia. È un tipo interessante, eh? Perché tutto è molto cordiale. È mellifluo, no? Mellifluo, cioè. Una gentilezza. Sinuosa, cioè. Sì. Dolciastro, cioè. Come si chiama? Mi sembra che si chiami Don Marcello. Don Marcello? Sì, sì. Ah, Don Marcello. Ma, sì, ma cos'è? Un prete? Un prete, sì. No, non un prete. È un bambino intellettuale. Vabbè, Don Marcello. Vabbè. Comunque siamo contenti. Dai, finalmente ti sei fatto un amico, Drago. Sì, almeno sì. Così abbiamo una scusa per non fargli più l'intervista. Vabbè, perché magari intervistiamo durante... anche questo amico, Don Marcello. Sì, è un nome un po' sinistro, Sì, ma non è una cosa così da niente. È un nuovo amichetto e basta. Questo qui è uno che mi fa fare la svolta, Ma come? Ma perché? No, questo qui, è uno tutto sicuro di sé, cioè, sembra uno che sa quello che vuole, E mi ha detto, tu, Albertuzzo, mi piaci, T'ha detto proprio così, io mi sarei un po' spaventato, sì. però. E poi mi ha detto che mi sistema per tutta la vita, Cioè, che io non devo pensare più a niente. Tu, Albertuzzo, non devi pensare più a niente. Più a niente nel senso che, mangiare, dormire, giochi, cioè... Basta, se ne occupa tutto lui. Ma tutto lui? In che senso? Sì. Don Marcello. No, perché lui è un bibliofilo, no? È uno che colleziona libri antichi, fa delle scoperte di libri e va in giro per l'Italia a parlare, no? E ha bisogno, uno che in giro così, così impegnato, con quella testa intellettuale, perché è un testone, ha bisogno di un segretario, no? Cioè di un segretario tutto fare. E saresti tu? E sarei io. Non so, ma tu cosa dici? Io sono il segretario di... Sì, la storia sospetta. Sì. E non dovresti fidarti così alla cieca, secondo me. Ti informi prima bene su sto bambino Don Marcello, perché secondo me poi altro che segretario. Ma perché? Cioè, scusate, lui mi ha spiegato tutto per bene, mi ha detto che dal punto di vista dei contributi sono tutto in regola e sono registrato come stalliere, no? Vabbè, ma tu che ne sai di stalle? Sì, appunto. Sei un bambino dell'asilo, lo stalliere. Sì, lo so, ma Don Marcello mi ha detto che da lui, no? Sì. Per fare lo stalliere con lui non è che devi proprio essere capace di fare lo stalliere, cioè non so se è qualcosa del messaggio. Sì, no, ma ti sembra una buona risposta? Vabbè, voi ditemi voi quando mi ricapita un'occasione così. Vabbè. Poi non devo pensare più a niente. Ma appunto, non fidarti. Anzi, non bisogna mai affidarsi completamente agli altri. Bambino Bertuccia, bisogna essere sempre autonomi e indipendenti. Vabbè, ma... No, perché poi il bambino Don Marcello vuole qualcosa indietro. Certo. Tu non devi pensare a niente fino a un certo punto. Perché poi arriva il momento in cui ti presentano il conto e ti dicono adesso... Lui non, questa cosa non me l'ha mica detto. Vabbè, ma mica è scemo che te lo dice. Comunque io non ci credo, Siete voi che siete dei menagrami. Dei? Dei menagramo, no? Menagramo. I memagrami. Melograno, capito. Non importa, bambino Albertuccia, quel che importa è che non devi accettare di diventare lo stagliere assistente segretario del bambino Don Marcello. Lascia stare, fidati. Vabbè, dai. No, fidati. No, non se ne parla nemmeno, anzi, adesso lo diciamo subito a Suor Dentona. Dai, capa, chiamale lì, Suor Dentona. Allora, Suor Dentona. Shh, dai, zitta però, non così. No, dai, Suor Dentona. Suor Dentona. No, Suor Dentona. Suor Dentona, allora, ma sei sorda, Suor Dentona. Ma no, che c'è bastone? No, ma io, sto Marcello, non l'ho mai conosciuto, Allora, Suor Dentona. Aia, ma Suor Dentona era capa, Aia! Ma basta! Ma basta, allora non cominci prima, no? Mandate i vostri bagnoschiuma a chiedoasilo@radio24.it.